oggi siamo qui in occasione del consiglio di amministrazione in cui appunto si voterà di nuovo la mozione che come rappresentanza maggioranza del consiglio studentesco abbiamo portato per chiedere di abbassare i costi del percorso appunto di abilitazione all'insegnamento che da come è stato proposto all'Unibo per ora prevede davvero un piccolissimo sgravio rispetto ai 2.500 euro che erano stati posti come massimale alla riforma insomma a livello nazionale. Pensiamo che sicuramente già da partire dalla riforma i problemi siano tantissimi, ma che comunque un ateneo come quello di Bologna, che sicuramente non ha problemi economici, dovrebbe essere tra i primi a garantire il più possibile l'accessibilità a questo percorso e a fare in modo che insomma l'insegnamento non diventi, e quindi l'accesso al mondo del lavoro non diventi un privilegio per pochi, ma davvero a portata di tutti e tutte. Questi costi, diciamo, sono proprio fissati dalla riforma? La riforma prevede solo un massimale a 2.500 euro per il percorso di 60 CFU e a 2.000 euro per il percorso dei 30 CFU, che invece è previsto per chi già insegna nelle scuole e che quindi deve solo integrare. Però appunto è una riforma a costo zero che quindi poi scarica tutti i costi sugli atenei e quindi poi sugli studenti. Noi già nei mesi scorsi, quando ancora si sapeva molto poco a livello nazionale, avevamo fatto passare appunto delle mozioni sia in consiglio di studenti che in senato accademico, chiedendo che l'ateneo si impegnasse a non applicare insomma il massimale, ma quantomeno a garantire una progressività e una no tax area che sarebbe già quella prevista per quanto riguarda appunto la tassazione dell'ateneo, che è a 27.000 euro. E la proposta che l'ateneo ha fatto in questi giorni è quella di prevedere i costi a 2.400 per i 60 CFU e 1.900 per i 30 CFU, impostando insomma come 60% fisso per tutti e poi un restante 40% a livello di progressività. Questo vuol dire che comunque almeno 1.500 euro li devi mettere per fare questo percorso, anche se hai un ISE basso e quindi banalmente saresti in un'area in cui anche sulla Bologna non pagheresti le tasse universitarie, ecco. Ma prima di questa riforma quanti erano i costi per l'abilitazione? Prima di questa riforma banalmente si riuscivano a prendere i 24 CFU che prima servivano anche durante il percorso universitario, una cosa che è prevista anche con questo percorso, ma in realtà è molto difficile da attuare nello specifico, perché ora questo percorso, oltre a degli esami da sostenere, prevede anche delle ore di tirocinio, tra le 400 ore di tirocinio per il percorso di 60 CFU, che quindi ovviamente ti preclude la possibilità di studiare, magari portare a termine la magistrale o anche solo fare un altro lavoro per poterti pagare i costi. Ora cioè diventa praticamente l'idea che dopo la magistrale devi fare un master in più, perché alla fine i costi sono quelli per poter accedere poi alle graduatorie. Tra l'altro uno dei problemi che è ancora da capire è anche il fatto che sicuramente sarà previsto un numero programmato per questi costi, cosa che prima non c'era, perché siamo ancora in attesa che l'ANVUR dia il parere a livello nazionale sull'accreditamento che gli atenei hanno presentato. Però insomma sicuramente non tutti gli atenei erogheranno i corsi, noi in tutti gli atenei saranno erogati i corsi per tutte le classi di concorso, per cui sicuramente gli studenti si troveranno anche a doversi spostare e quindi tra l'altro anche andare ad aggravare ulteriormente la crisi abitativa nelle grandi città, che già è un grosso problema. È per questo che avete fatto proposte anche che riguardano proprio il posto dove risiedere durante questo percorso? Sì, esatto, insomma nella nostra mozione era anche previsto che l'ateneo parlasse con Ergo per assicurare agli studenti che si spostano e che vengono a Bologna per sostenere apposta il percorso degli affitti nelle residenze universitarie presso Calmirato, e appunto anche questa parte della mozione non è passata. Il senato accademico ha bocciato le vostre proposte, però insomma quello che voi vedete come rischio è che, come dire, diventare insegnanti sia un privilegio. Di fatto insomma sarà sicuramente così, già solo per il fatto dei costi, già per il fatto che non tutti si possono permettere di spostarsi, e anche per il fatto che ora tra l'altro sarà possibile solo iscriversi a una sola classe di concorso e non come era possibile prima fare un'abilitazione a cascata, per cui molti studenti e studentesse che avevano già impostato il loro percorso universitario in vista di questo ora si trovano davanti a un futuro ancora più precario di prima. E quindi insomma già a livello di tempistiche quest'anno non sappiamo nemmeno quando partiranno i corsi, però insomma anche chi troverà negli anni prossimi a doversi affrontare, probabilmente noi abbiamo diverse testimonianze di studenti che ci hanno proprio detto che stanno capendo cos'altro fare e che quindi stanno cambiando i loro percorsi, e questo poi andrà ad influenzare anche il mondo della scuola tutto, non solo quello dell'università.